24 agosto 1943. Spazio 79 del cimitero del sanatorio di Grosvenor. Mi seppelliscono con la povera gente vicino al bosco, un gran bel posto. Si possiede esattamente quel che si desidera. Le cœur a cédé suite à une faiblesse du cœur. Quando ripenso ai miei compatrioti che stanno morendo di fame in Francia, mi è impossibile mangiare. ragione. Il fichu, je me sens légère, je me sens légère, je me sens légère. Caro padre, questa è l'ultima lettera, prima che la mia voce sia tramutata in ali, prima che io sia finalmente mangiata da Dio. Questo dolore piacevole che sento al cuore è perché esso avverte meglio di me l'armonia, la nostalgia crea questo dolore. E presto non ci sarà più. Ho un rimasuglio di paura, ma deve essere che non ho ancora del tutto mollato le leggi del tempo né la forza di gravità. Quando il cuore è così aperto, allargato, quando ha lasciato la sua forma di muscolo, sai di non perdere nulla se te ne vai morire. In uno stato di tale ampiezza, in uno stato di grazia, è una fortuna. Che altro? Questa è una lettera che s'ascolta, non si legge, perché sono già in cammino nella strada che porta dalla vita terrena alla patria celeste, spero lei, padre Perrin. È il mio ultimo filo da recidere, quel filo infinitamente sottile che, come diceva San Giovanni della Croce, lega e pesa come una grossa catena di metallo. Caro padre, lei sa che ho sempre tentato di agire la verità. È stata la vanga con cui ho dissodato dalla vita di ogni giorno la sua cifra di beatitudine. Non è una questione di suicidio, come dicono, la mia, seppure. La sofferenza mi abbia portata a patire la fame per condividere il dolore con gli ultimi tutti. Forse è necessità. Questa morte, la mia personale necessità, così come necessità è stato sempre il dolore inflittomi dallo stridere della mia materia carnale, corpo logoro, fin dalla nascita. È come se io avessi vissuto una lunga poesia. E la poesia, ora, fosse compiuta. silenzia. Quando si nasce come sono nata io, si è subito grandi. E i giochi sono già preveggenza di una vita senza sconti, accolta, sì. Forse sì, accolta questa vita. A ridere, fare piccole follie, scivolare tra nascondigli di foglie e un fratello da rincorrere fino su, la cima degli alberi, mio fratello André. Lo amo. E non ha nome questo amore, è sangue. Nel circolo delle vene inizia il suo giro nell'uno per finire nel cuore dell'altra. Con mio fratello andavamo in giro scalzi, a dire a tutti che avevamo freddo, che avevamo fame, mentre nostra madre disperata arrossiva di vergogna. Fra noi è sempre stata una giostra di fascino, calci, schiaffi. Ma se mia madre, ancora oggi solo, lo pensa, André, unico genio della famiglia, mi piego e torno a sentirmi come lui mi chiamava. Gnomo. Diciamo a tutti che abbiamo freddo e fame. Andiamo in giro scalzi. Via, queste maledette calze, via. Corrompono. Fanno marcire il corpo. Tutti uguali. Dovremmo vestirci tutti uguali, con pochi soldi. Così non si vedrebbero le differenze fra ricchi e miserabili. Non mi sono mai liberata da questo affare di volergli bene, d'amarlo e d'amare mia madre. Eppure, m'hanno lasciato addosso la cicatrice del dubbio, il dubbio che l'essere nata femmina in qualche maniera m'avesse azzoppata. Certe volte avrei voluto non esserci stata. In questo corpo piccolo, sgangherato, che brucia e fa così male. Mi si è piantata in testa una nenia di povertà. Rimbomba. È una gran cassa di colpi e marcio d'esistenza. Mi usura. Consuma. Neppure la preghiera fa silenzio. Mi porto fra le costole la pancia. Una ferita umana. Gli occhi sono trappole. Scattano a catturare immagini che battono sulla coscienza nel petto. Ho un ingombro di voci. Feriti. Affamati. Prostitute, operai, miserabili e quelli che proprio non sanno cosa fare. Mi sei innestata in anima. Un eco di giustizia, mi si è accesa l'attenzione viva. Io devo vivere la vita dei poveri, ho bisogno di passare fra gli uomini e confondermi con loro. Io devo conoscerli e amarli per come sono. Se così non è, anche il mio amore non è. Io devo conoscere la verità. Ehi. La società è un'immensa macchina che senza sosta ghermisce gli uomini. Nessuno conosce i comandi. Coloro che si sacrificano per il progresso sociale sembrano persone che si aggrappano alle rotelle e alle cinghie di trasmissione per cercare di fermare la macchina, facendosi a loro volta stritolare. È necessario porre le basi per una nuova etica del lavoro, perché la sua squalificazione è la fine della civiltà, è la salute del pensiero che deve essere preservata. È un sistema costellato di trappole. Ci sono trappole in ogni esaltazione, in ogni chiasso, da politico balordo, da padrone balbettante trappole. Ci sono trappole di guerra e di sudore, di sesso da mercato, e quello che è peggio è che sono trappole affascinanti, puntellate sul vuoto che si è venuto a creare in animo a tutti. Si insinuano nelle parole, senza che ce ne rendiamo conto, ne fanno un omicidio. Numeri, percentuali, statistica, convulsi consumatori ridotti ad essere la misura di una tacca da segnare sulla lista del profitto, dentro le auto spinte alla corsa, dentro i vestiti all'ultima moda, illusioni di una felicità che si restituisce di ora in ora senza averne la percezione, con il dono estremo della vita cosciente all'ingranaggio del mercato. L'illusione alla quale siamo appiccicati si stringe come un cappio al collo ed è un'orgia di spot pubblicitari e slogan che annichiliscono, ci trasformano in macchinette isteriche alla ricerca di un sacrificio qualsiasi che faccia più rumore del silenzio al quale siamo condannati, che alla fine anche le grida, alla fine anche le scritte sui muri, anche le donne come oggettini, anche lo stupro fanno parte del silenzio, se dietro la schiena incombe la mannaia di un potere indifferente, grasso e avido. Non essere complici. Non mentire. Non restare ciechi. Dobbiamo smascherare le parole che furtano la coscienza. Il professor Chartier mi ripeteva di tenere a freno l'indignazione, ma a me l'indignazione un giorno, non so come, m'ha toccata. E quando ti tocca, non dimentichi più d'aver sentito la pena. Quando ti tocca, non sei più complice. Non resti cieco. E non menti. C'è chi si tappa gli occhi per non guardare e chi vive la vita delle bestie e spesso arriva a viverla nell'incoscienza, questa vita prostrata, tanto è trattato meno di un animale. Io, che ho voluto avvicinarmi alla vita degli ultimi in fabbrica, bestia, lo sarei diventata davvero se un po' di coscienza non ce l'avessi avuta conficcata in corpo come una chiamata, come un divino. Mi hanno messa alle presse, si lavora a cottimo, si mangia un panino, si lavora contemporaneamente, si crepa di fatica, ci si sente schiavi, umiliati nel profondo. Sono maldestra, mi brucio le dita, solo lavoro, discariche ed uomini e solo lavoro, discariche ed uomini e solo lavoro, fare del pensiero un'azione, fare del pensiero un'azione. Non ci riconosciamo più in quello che facciamo e perché lo facciamo. Non c'è proposto nessun bene degno come fine per le nostre fatiche. Si masticano bulloni e ingranaggi. Lo stomaco ringhia la sua rivincita. Tira pugni e picchia una vendetta lacerata. In coliche di fame non sanno che farsene nella miele ritorte. Della fame e del sudore. Delle donne spaccate dalle presse. Il ventre affumicato e molle. Secco di speranze e bambini a strascico. Il sistema crea masse di schiavi che la routine domestica al mesto senso, spegne in loro ogni tensione alla salvezza. Non c'è tempo di guardare il cielo, non c'è tempo di partecipare vivi al mondo, quando là di sotto si è mortificati di calci e di sputi. Io vorrei abbracciarlo tutto, questo putiferio di gente incolta, tradita, costretta al ceppo metallico delle macchine furibonde. Non c'è tempo, non c'è tempo. C'è tempo. Mi sono spogliata e ho preso una forma di miseria tale che perfino respirare mi pareva un diritto conquistato. Rendere schiavo un altro essere vivente è un crimine contro l'umanità. Ma l'impotenza in cui ci si trova a un certo momento, che non deve mai essere considerata definitiva, non può esentare dal rimanere fedeli a se stessi il peggior tradimento possibile, in qualunque circostanza. Consiste sempre nell'accettare di sottostare a questo apparato e di calpestare in se stessi e negli altri per servirlo. Tutti i valori umani. È un inferno. Eppure, in questo inferno, basta un sorriso. Veramente preziose sono quelle che costituiscono un gradino verso la bellezza del mondo. Al novero delle cose preziose appartiene tutto ciò che avvolge di poesia la vita umana in ogni strato sociale. Credo in Dio. Io credo nell'incarnazione. Io credo nell'Eucaristia. Io credo negli insegnamenti del Vangelo. Io credo in queste verità. Io credo. Io credo. Ma non sottoscrivo quello che afferma la Chiesa su di esse. Non riconosco alla Chiesa il diritto di limitare le azioni dell'intelligenza o le illuminazioni dell'amore. Attento alla Chiesa, padre Perrin, attento alla Chiesa. Essa si è smarrita nell'inganno di credersi potente al pari, forse più, di Dio stesso. E forse Dio, da lì, da quel genere di alloggio che trasuda bugie, se n'è già scappato lontano. La Chiesa, come cosa sociale, trasforma il cristianesimo in una religione di schiavi ed è quasi impossibile distinguere la vera fede dalla sua imitazione. In questo gioco sociale si è immersi in un noi a forma di gabbia. Dà sicurezza, ma è una bara per la libertà. Per tutta la vita, padre, per tutta la vita ho combattuto il noi del partito, il noi della razza, il noi della nazione, il noi della classe, il noi della Chiesa. Perché per me entrare in un noi significa abbandonare gli altri. La fede non è sforzo di volontà teso all'ascendere, non è autosuggestione, essa è credere che la realtà è amore. Caro padre, lei mi chiama cristiana e quasi non so perché. Non ho mai cercato la fede. La Grecia, l'Egitto, l'India, la Cina antica, la bellezza del mondo e i riflessi di questa bellezza nella scienza, nell'arte. Lo spettacolo delle pieghe del cuore umano in uomini nei quali non c'era posto alcuno per la credenza religiosa. Tutte queste cose hanno contribuito quanto ciò che è visibilmente cristiano nel portarmi Cristo. E forse anche di più. Dio che ci parla nel segreto d'ogni giorno è un'assenza feconda, una presenza gravida di silenzio. Chi non ha udito la sua parola, anche se aderisce a tutti i dogmi insegnati dalla Chiesa, non è in contatto con la verità. In questo miracolo di silenzio, che non ha inizio e non ha fine, un giorno, e ne sono sicura, perché né i sensi né l'immaginazione vi hanno partecipato, quel giorno Cristo è venuto e mi ha presa. Dio m'ha toccata da persona a persona e gli occhi hanno preso fuoco. È lo sguardo, padre, lo sguardo che dà la vita. La prima vittima di ogni guerra è la verità. La guerra è un agire sull'immaginazione. Appiattisce la visione delle cose. Ti fa perdere coscienza dei dati irreali di una circostanza. E persino di capire che vi è solo un problema da risolvere. E non una fatalità da subire. L'illusione si traveste allora di sacralità. Prende la forma del prestigio, dell'amore di patria. Della lotta contro l'umiliazione, dell'onore da difendere. Un'atmosfera tale cancella anche lo scopo stesso della lotta. Lenta, un'ebbrezza animale si sparge allora nell'aria. Maneggiare un'arma, ne trai un'illusione di elevazione, la falsa esaltazione legata al potere, all'assassinio, al possesso sessuale, soffocata ogni eventuale repulsione, per timore di mancare di virilità. È difficile, difficile. Difficile resistere a una simile ebbrezza. Io l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista quell'ebbrezza, l'ho vista negli occhi dei nemici. L'ho vista quell'ebbrezza, l'ho vista negli occhi degli amici. L'ho vista quell'ebbrezza in Spagna coi partigiani. Colonna Durruti brindava vino e sangue dei preti trucidati. Si divertiva alle spalle di un ragazzino di 15 anni. Se non mi avesse salvato dalla follia, la pietà dell'olio bollente che per incidente mi sono versata sulle gambe, mi sarei fatta uccidere al posto suo per non averlo come peso sulla coscienza che ora bussa e strappa il sonno alle mie notti. Mamma. Mamma. Mamma. Mamma. Mamma. Mamma. Mamma. Mamma. Mamma. Mamma. Mamma. mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma. Io l'ho vista quell'ebbrezza sanguinaria nelle mani dei nazisti forzare i vecchi a saltare sui manganelli e sui fili spinati, e gli studenti, li ho visti, gli studenti buttati giù dalle finestre delle scuole. Io l'ho vista nei corpicini bambini rinsecchiti, mulinavano le gambe in aria come fosse un gioco acrobatico, e invece era la litania cagna delle camere a gas a dargli il ritmo convulso dell'ultimo respiro. Lasciati soli. Il mio senso di pace ha tremato. Ha scalciato con testa di coniglio battuta e muta. Chiedeva aiuto lui, mentre lo tenevo per le orecchie. Chiedeva perché ha sopportato di tutto lui. Morti d'ogni genere. Poi sei inginocchiato, piegato alla resa d'ogni ragione, davanti allo sfacelo delle deportazioni. La pace ha preso in me la forma di un'impiccagione! La guerra è prima di tutto fisica per chi viene colpito. Ed è allora che l'illusione si spezza. L'incrosto del sangue sui marciapiedi è firme. Da vicino. Hai mai visto un uomo che prima era un uomo? Hai mai visto da vicino? Hai mai visto Giunca? Giunca. Quando sparano, come diventa? Hai mai visto che non è possibile? Il corpo in certe posizioni, piegato impossibile, e sempre, hai mai visto che sempre non hanno più scarpe i morti? piccoli ossicini di memoria. Tra queste macerie di case sorprese, le bambine piangono cenere e il ventre sfasciato. I soldati lanciano caramelle, zolfatare di guerra e veleno. Il corpo si fonde, la stoffa diventa una pelle e non sai com'è, che prima c'avevi le braccia e anche le mani c'avevi e non sai com'è, che ti ritrovi a terra una foca molle tra uno zoo d'animali bambini rigonfi, pezzi unici, monconi disciolti in pianto e carne come cera. Quando le autorità spirituali e temporali escludono una categoria di esseri umani dalla schiera di coloro la cui vita ha un prezzo, non si teme più né castigo né biasimo. Si uccide. Ma ciò che non ha ali finisce sempre per ricadere. Pancia è bucata da sempre. C'è piantato un chiodo di nostalgia. In quel buco, la furia della libertà, la ricerca, oltre i lacci ruvidi delle convenzioni. Non c'è filo spinato che impedisca al cuore la sua ricerca. Nessuna congiura sociale può sopire il desiderio bruciante che raschia l'anima. Ogni desiderio, che si chiami amore, o poesia, o passione, è in quel luogo profondo dell'anima che forse abbiamo dimenticato d'ascoltare. Un po' per paura, un po' per orgoglio. Lo stesso desiderio che aveva Ulisse di tornare in patria. L'anima stordita cerca un risveglio, la patria attende. Per raggiungerla, io mi ero immaginata di dover compiere un viaggio verso chissà quale posto lontano, ma ora so di non dover raggiungere alcun luogo fisico, perché in patria, padre Pan, lo sono sempre stata. Il viaggio, allora, non è che una detersione, lacerare il velo delle illusioni. Bisogna utilizzare i giochi della realtà come un mezzo, non come un fine. Allora ci si può svegliare, allora si può vedere molto, molto più lontano, vivere e amare il mondo. Anche la sua frizione di materia, anche la nudità del ferro confitto in petto, anche la forza di gravità, anche la necessità degli eventi e delle cose. Padre, padre, padre. L'amour m'a dit bonjour, mais mon âme s'est rétractée, salie par la poussière et le péché. Mais l'amour est non clondé, observant ma retraite après mes premiers émois, s'est rapproché de moi et doucement me demander si je n'ai pas perdu quelque chose, mi si fece vicino, dolcemente chiedendo se di nulla mancassi. Un invité, j'ai répondu, digne d'être reçu. L'amour m'a dit, ça devrait être toi. Io, lo scortese, l'ingrato, oh, amico mio, non posso alzare lo sguardo su di te, moi, le méchant, le gras, oh mon cher, je n'ose te regarder. L'amour a pris ma main et m'a répondu en souriant, qui d'autre que moi a créé les regards? È vero, signore, ma lo macchiai. Se ne vada la mia vergogna là dove merita d'andare. En vérité, seigneur, je le souillé que ma honte aille où elle mérite. Et ne sais-tu pas, me dit l'amour, qui est le coupable? Mon cher, alors, j'expirai ma peine. Assieds-toi, me dit l'amour, et savoure ma substance. Così, io mi sedetti e lo mangiai.